giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Il tulipano indossava un abito color carminio. Non voleva tradire la fiducia dei petti rossi che saltellavano furtivi. Emily Dickinson. Buona prima domenica di aprile anche da parte mia, bentrovati nel giardino di Radio 24. È il momento dei tulipani questo, e anche se non possiamo andare a vedere le spettacolari fioriture che accendono l'Italia, questa bellezza non la faremo passare sotto silenzio. Tra poco andremo vicino Torino, a Pralormo, dalla signora dei tulipani, consolata Pralormo, che ne propone addirittura 100.000 nel parco del suo castello. Ma prima di regalarci la bellezza delle piante, ci concentriamo sulla loro utilità, perché in questo momento di emergenza c'è chi sta studiando, ricercando, proprio sul potere curativo delle piante che possono rivelarsi preziose alleate anche contro il Covid-19. Le sta studiando, tra gli altri, Fabio Firenzuoli, direttore del centro di fitoterapia dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, in Toscana, l'unica realtà italiana del genere, parte di un servizio sanitario regionale, quindi pubblico. La fitoterapia dunque non come alternativa, ma parte integrante della medicina ufficiale. Bentrovato, dottor Firenzuoli. Bentrovati, grazie. Sì, parte integrante, questo da sempre in realtà. Inizialmente ho sempre creduto e mi ha sempre affascinato, no, questa disciplina. Poi in realtà nel tempo è diventata un'attività di tipo professionale, anche perché ormai da una trentina d'anni a questa parte le piante medicinali e i loro derivati, che siano estratti o l'essenziale eccetera, sono entrati in maniera ufficiale all'interno della farmacopea italiana e poi anche europea ovviamente. Poi esistono molti estratti di piante cosiddetti fitoterapici anche all'interno dei medicinali propriamente detti, molti altri estratti di piante invece si trovano nella categoria degli integratori, ma a parte questo, ecco, quello che di nuovo è emerso nelle ultime decine di anni è che cosa? Conoscenze che vengono dalla tradizione, anche lontana nel tempo, oggi le abbiamo disponibili una volta passato il vaglio della ricerca scientifica. Per cui ci sono delle piante che sono state, hanno superato questa verifica e sono diventate a tutti gli effetti medicinali, ci sono delle piante che devono essere modulate, altre che sono, come si dice, rimbalzate, no? Che avevano una tradizione sì, ma che invece una volta sottoposta alla verifica si sono dimostrate o inutili o addirittura qualcuna che rischiosa. Diciamo che abbiamo un tesoro di saperi che ci arriva dalla storia e dal passato, che adesso la scienza sta testando, sta controllando per poter utilizzare in questi tempi moderni le piante in tutta sicurezza. Assolutamente sì, perché questo è un concetto molto importante, quello della verifica scientifica, perché soprattutto negli ultimi anni abbiamo sempre sentito dire il concetto: il naturale è buono, il naturale è bello, il naturale è carino, il naturale serve, proprio perché sarebbe diverso dal chimico, no? Dal farmaco di origine chimica, mentre invece è proprio un errore madornale questa concezione, perché anche il naturale è chimica, solo che è naturale, nel senso che è tratto dalle piante, ma è pur sempre chimica, e come può far bene, può fare anche male, per cui bisogna stare, come si dice noi, con i piedi nella tradizione, ma con la mente nella scienza e con le braccia, come si dice, nel mondo della sanità, perché la fitoterapia può far parte integrante del mondo della sanità e non soltanto della salute in senso specifico. Quindi niente fai da te, è importante che ci siano persone come lei, dottor Firenzuoli, centri come quello di Careggi per poterci affidare alle piante. Lei ha citato pazienti oncologici, ma sappiamo quanti disturbi del sonno, dell'ansia legati alla menopausa e così via lei starà già curando da tempo con le piante. Parleremo di questo molto presto, però in questo momento così difficile, così complicato, noi siamo concentrati su questo virus che ci sta assediando. E so che ci sono delle piante, non certo miracolose, ma che possono essere utilizzate in maniera preventiva, che possono aiutare i pazienti Covid-19, piante di cui lei ha parlato recentemente con una delegazione arrivata dalla Cina. Sì, per l'appunto in questi giorni c'è stata da noi a Firenze, ma già sono venuti anche a Milano piuttosto che a Roma, delle delegazioni abbastanza consistenti anche di medici cinesi, esperti in malattie infettive, virologi, ma anche medici della medicina tradizionale cinese, a portare che cosa? La loro esperienza in termini di prevenzione, di uso dei farmaci, ma anche di uso delle erbe, perché da loro la medicina tradizionale cinese prevede molto comunemente, molto facilmente, non soltanto l'agopuntura piuttosto che consigli di dietetica eccetera, ma l'uso di erbe, che, e loro si affidano ovviamente a preparazioni cosiddette appunto tradizionali, che vengono da migliaia di anni di tradizione, ma che hanno anche sperimentato durante il periodo della SARS e dell'influenza H1N1, per cui hanno riportato certe loro esperienze. In più ovviamente non hanno trascurato il fatto di poterle sperimentare anche su pazienti Covid. Oltretutto hanno in attivo attualmente diversi trial clinici proprio per sperimentare l'efficacia di preparazioni tradizionali su questa gravissima e micidiale pandemia. Ecco, per cui il loro racconto ci è servito a illuminarci ancora di più quella che è in realtà la conoscenza che viene dall'analisi della letteratura scientifica, che già parla, ecco, di diverse piante utilizzate nella medicina cinese. Dottore, illumini anche noi. Di quali piante avete parlato e in che modo ci possono aiutare contro il Covid? Ma diciamo che nella medicina tradizionale cinese, cioè la tradizione, è causare miscele di numerose erbe che appartengono appunto alla loro cultura e con le quali curano delle sindromi piuttosto delle malattie, cioè delle manifestazioni che in qualche modo rispondono a delle categorie di tipo culturale e anche di tipo scientifico diverse dalle nostre. Per cui preferiamo, diciamo, non avendo la cultura della medicina cinese, preferiamo utilizzarle secondo i canoni della medicina scientifica. Ma, e quindi ce ne sono molte che loro utilizzano, noi siamo abituati a studiarle singolarmente e da quelle tante di cui ci hanno parlato ne emergono alcune molto interessanti, alcune peraltro che vengono sì dalla medicina cinese ma che le utilizziamo già da tempo anche noi in medicina occidentale. Guardi, due piante, una è conosciuta senz'altro da tutti quelli che ci ascoltano, perché è la liquirizia, no? Che è una pianta ugualmente che viene dalla medicina cinese ma che noi conosciamo fondamentalmente per due motivi. Primo, perché tutti sanno che può far male e quindi molti la evitano, no? Perché può aumentare la pressione se si usa in maniera continuativa, può interferire con tanti farmaci, eccetera. L'altro invece se ne conoscono i cosiddetti, insomma, lievi effetti benefici, che vorrebbero essere quelli di lenire le infiammazioni dello stomaco, disturbi digestivi e anche la tosse. Ecco, e invece proprio su questo aspetto del ridurre la tosse loro ci stanno puntando molto. Ma anche la ricerca ha approfondito la questione e ha dimostrato che le saponine che stanno dentro la liquirizia, queste sostanze particolari tra cui la glicidina, c'ha un effetto non solo sedativo della tosse, ma c'ha un effetto sistemico di tipo antinfiammatorio che, diciamo noi, nel curare in maniera magari complementare, ovviamente insieme ad altri farmaci, l'infiammazione, che ha un effetto diretto proprio sui polmoni di questo virus bestiale proprio, no? Poi un'altra cosa che sta emergendo dalla letteratura è che la glicidina, ma anche i polifenoli contenuti sempre nella liquirizia, hanno un effetto antivirale, addirittura su dei coronavirus, non sul Covid-19 perché non esisteva ovviamente, ma è stato testato su altri virus. Sto facendo l'esempio della liquirizia, ma sono altre anche le piante disponibili. Ho letto del geranio africano, il Pelargonium sidoides, dell'astragalo, delle echinacee. Del geranio, sì, dell'astragalo, è sempre una pianta cinese, del geranio che viene invece dalla medicina africana e che oggi noi abbiamo disponibile ormai da tempo, registrato addirittura come medicinale da noi, anche nel nostro paese, no? Per curare i sintomi dell'influenza. Ebbene, le stesse radici del geranio, questo geranio africano, che è molto simile ai nostri ornamentali, in realtà contengono ugualmente dei polifenoli ad azione antivirale e immunomodulante. Allora diciamo noi, senza andare a scomodare formule anche molto complesse che vengono dall'uso di migliaia di anni della tradizione cinese, noi potremmo utilizzare piante che vengono da quella tradizione, ma piante che vengono anche dalla tradizione nostra, europea, come lo stesso sambuco, piuttosto che africana come il geranio, piuttosto che nordamericana come l'echinacea o sudamericana come l'uncaria, per verificare ovviamente. Esiste la possibilità di fare sperimentazioni, studiare e protocollare dei progetti di ricerca clinica per valutare appunto l'effetto di queste piante che sono conosciute appunto da noi dal punto di vista chimico e farmacologico come terapia integrata o addirittura anche come prevenzione nei pazienti affetti da Covid, oppure nei contatti, oppure nel personale per esempio sanitario. Noi segniamo molto, non solo perché noi siamo sanitari, no? Ma perché il personale sanitario va salvaguardato. Allora il medico di base che è esposto continuamente al rischio di avere dei contatti, piuttosto che il medico intensivista, piuttosto che l'infermiere, piuttosto che tutti gli altri che sono esposti a portatori di virus, ecco, potrebbero trarre giovamento anche in senso preventivo con sostanze immunostimolanti, come appunto si diceva l'astragalo, ma una per tutte la ben nota echinacea. Per cui diciamo noi, cioè abbiamo un potenziale non terapeutico, ma un potenziale che potrebbe diventare anche utile. E quindi come si fa a sottacere di fronte a questo? Ma infatti noi ne parliamo, in Cina i test sono partiti, e in Italia qual è la tempistica? Ma dunque, in Cina diciamo li stanno testando ora, loro li hanno testati nei tempi passati per altre epidemie di altri virus, no? Li stanno testando ora, e in Italia dunque, allora, le piante che sono già ammesse non hanno necessità di essere testate. Una per tutte, tu dicevi l'esempio del pelargonio, è già disponibile come medicinale per curare i disturbi influenzali. Va verificato se serve anche contro il Covid-19, ma intanto noi sappiamo benissimo che i pazienti pauci sintomatici che hanno o soltanto della febbre o soltanto della tosse, normalmente se non hanno altre complicazioni non fanno nessuna terapia. Ma in questo frattempo, per esempio, potrebbe essere utilizzata, ovviamente con il consiglio, con il controllo del medico, una pianta come queste che magari ha un'azione non solo sintomatica, ma potrebbe essere valorizzata questa potenzialità antivirale e immunostimolante. Questo per il geranio africano, e per le altre? Per altre invece possiamo strutturare dei percorsi di tipo sperimentale che ora l'AIFA sta analizzando con molta rapidità, non superficialità, ma accelerando il processo di verifica del protocollo, e quindi erbe nostrane ed erbe che vengono anche dalla medicina cinese possono essere sottoposti in forma di protocollo di ricerca all'AIFA, per cui noi ora stiamo valutando ai nostri virologi, ai nostri infettivologi di Careggi e anche altri gruppi della Toscana se riusciamo a costruire un trial, una ricerca clinica che deve ovviamente corrispondere al rigore metodologico di qualunque altro trial e deve essere autorizzato dall'AIFA. I tempi noi speriamo che siano brevi, però non possiamo purtroppo sindacare il futuro, ecco, però siamo abbastanza fiduciosi. E le piante possono davvero aiutarci ad essere nostre alleate. Dottore, c'era un film di qualche anno fa americano, si chiamava Contagion, che raccontava una pandemia drammaticamente simile alla nostra, e in quel film, così come accade poi anche nella realtà, c'erano ciarlatani che parlavano di cure miracolose, vendevano queste cure miracolose, si parlava in particolare, mi ricordo, della forsizia. Ecco, noi abbiamo parlato di astragalo, di gerani, di liquirizia, di echinace, voglio dire, queste non sono piante miracolose, non sono cose su cui dobbiamo buttarci con un insensato fai da te, ecco, non facciamo da soli. Questo sarebbe profondamente sbagliato, come profondamente sbagliato sarebbe qualunque metodica fai da te. Noi diciamo questo perché siamo stimolati nella ricerca su queste piante, nell'uso quando è consentito e come è consentito. Ricordiamoci che anche la camomilla ha delle controindicazioni, anche l'echinacea ha delle controindicazioni, anche il pelargonio ha delle controindicazioni, dei rischi di interazione. Quindi mai fai da te, per carità di Dio, questo assolutamente no. Però per dire che c'è una possibilità, c'è quantomeno una speranza, quantomeno una volontà di fare ricerca seria, scientifica, razionale, pertinente, anche con cose che apparentemente non vengono considerate da qualcuno la cenerentola della medicina, no? Tutt'altro. Dottor Firenzuoli, direttore del centro di fitoterapia dell'azienda ospedaliero-sanitaria di Careggi, Firenze, grazie mille per essere stato con noi, spero di risentirla presto con ottime notizie. Grazie, speriamo davvero, volentieri, grazie. La natura non fa nulla invano. Aristotele. Ci ritroviamo tra un attimo in mezzo a 100.000 tulipani. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati. E in questo periodo difficile continuiamo ad esserci. Anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Il giardino segreto. Le piante sono fondamentali per la salute, ma lo sono anche per il nostro equilibrio, per la nostra serenità. Per cui godiamoci adesso una visita a distanza in un parco sconfinato che circonda una dimora storica a pochi chilometri da Torino e da Alba. Andiamo al castello di Pralormo, dove fioriscono in questo momento 100.000 tra tulipani e altre bulbose. La 21esima manifestazione di Messer Tulipano purtroppo quest'anno, come tutte le altre, è stata annullata, ma la sua ideatrice, Consolata Pralormo, la signora dei tulipani, pluripremiata anche al Chelsea Flower Show, almeno virtualmente questo spettacolo lo sta condividendo. Bentrovata al Giardino Segreto. Benvenuti. Ci troviamo a Castello di Pralormo, che è del XII secolo e dimora la nostra famiglia da 400 anni, ci viviamo proprio nella nostra casa, e ho avuto 20 anni fa un po' quest'idea di inventare questo Messer Tulipano. 20 anni fa, dopo un viaggio in Olanda? Sì, infatti, un viaggio per vacanza, ho capito che gli italiani conoscevano pochi i bulbi, io faccio sempre le cose che non fanno gli altri nella mia vita, ho sempre fatto così, e ho pensato di proporre questa meravigliosa fioritura, capendo anche che un parco inglese come il nostro, creato nel 1820 da un architetto di corte, con delle prospettive particolari. Noi vediamo dal Monviso al Monte Rosa, ecco, in questo parco potevano ambientarsi bene questi fiori. Infatti ho studiato a modo approfondito questo progetto, perché volevo non prevaricare la storicità di questo giardino e di questo parco, e l'effetto è meraviglioso, straordinario. Perché parliamo di 100.000 tulipani, soprattutto tulipani, narcisi, altre bulbose, quindi un numero infinito, pensiamo al colpo d'occhio, eppure una fioritura che si integra naturalmente nel parco storico. Sì, difatti sono 100.000 fra tulipani, tutte bulbose, quindi tulipani, narcisi, giacinti, muscari, tutto il mondo delle bulbose. Creando questo progetto, io sono laureata nella storia dei parchi all'inglese, fra parentesi, e creando questo progetto ho fatto le aiuole non squadrate come a volte si vedono in Olanda, ma tutte sinuose, che seguono proprio l'andamento dei viali nel parco, anche nell'accostamento colori. Ho fatto dei toni pastello, mentre nei giardini olandesi e tedeschi soprattutto si vede sempre un sol giallo e rosso vicino. Ecco, invece io ad esempio faccio un esempio, bianco, avorio, giallino chiaro, giallino scuro e arancio, creando quindi proprio un po' anche una poesia del colore, perché il mio intento fin dall'inizio è stato di aprire una proprietà privata al pubblico e soprattutto di donare bellezza alle persone, e quindi in questo periodo maggiormente ancora di più l'intento sarebbe stato quello. Il suo intento sarebbe stato quello, e sarebbe stata una gioia venire in questo inizio primavera a godere di uno spettacolo del genere. Io stessa sarei dovuta essere lì a intervistarla di persona, girando tra tulipani e fioriture, e purtroppo non si può fare, però la bellezza bisogna condividerla anche in momenti pesanti, anzi forse soprattutto in momenti drammatici come questo. E allora lei lo sta facendo con delle passeggiate virtuali, con dei filmati quotidiani in cui ci accompagna a vedere giorno per giorno queste fioriture sui social. Basta mettere Messer Tulipano. Certo, quindi abbiamo cominciato, se voi andate sul nostro sito www.castellodipralormo.com oppure anche su Facebook sotto il nome di Messer Tulipano, Instagram, ogni giorno inseriamo un breve filmato di un minuto circa con una fioritura diversa, perché le persone possano fare con me una visita virtuale con il mio commento, a volte compaio anche io, quindi è proprio come se vi prendessi per mano, varcati i nostri cancelli, vi accompagnassi lungo il parco a scoprire la sorpresa di ogni giorno di fioriture sempre diverse. Momento per momento, perché in effetti ogni giorno il parco cambia. Sì, ha dei cambiamenti non solo per la parte del piantamento dei tulipani che sbocciano a scalare. Ecco, questo è un consiglio che do per chi ha giardini. Quando si acquista i tulipani, guardare non solo il colore e l'altezza, ma guardare il tempo di fioritura. Acquistandoli precoci, mediani e tardivi, si ha la fioritura di un mese anziché di solo 10 giorni. Quindi cambiano loro, ma cambiano le fioriture. In questo momento abbiamo la forsizia gialla, cominciano le magnolie, lilà, fra un po' avremo anche le peonie, poi cominciano le rose. Quindi il parco è interessante di per sé come impianto, però questa aggiunta che io ho fatto da 20 anni ha dato una notorietà particolare al Castello di Pralormo, ma una grossissima ricaduta economica al territorio anche. Qui si incrociano le province di Torino, di Asti e di Cuneo, quindi un baluardo, ma noi, la nostra generazione, ha dato un po' una svolta facendo facendo questa perdura che dura un mese, il tulipano tutto aprile, ma anche tutte le domeniche fino al 30 novembre, la visita all'interno del castello, che è una casa e appassiona molto perché si vede la nostra casa, ecco, non un museo. Tulipani e non soltanto, un intero parco da godere tutto l'anno, c'è anche una dimora storica. Ma tornando a Messer Tulipano, chissà quanto lavoro ogni anno per organizzare l'edizione, questa sarebbe stata la 21esima edizione. Ecco, ci tengo molto a sottolineare, perché le persone a volte arrivano in questo paradiso terrestre e dicono: ah, certo che lei, basta aprire i cancelli, è fortunata, è un parco meraviglioso. C'è un lavoro enorme per i tulipani, in particolare pensi che noi, quando finisce il tulipano a maggio, a giugno facciamo un nuovo progetto per poter ordinare i bulbi un po' particolari. A ottobre 10 persone per 10 giorni piantano, quindi 100.000 tulipani arrivano a ottobre, puoi immaginare l'investimento finanziario, quindi grosso investimento è stato in autunno sia del personale che del prodotto tulipano. La progettazione, quindi si lavora tutto un anno, difatti ho un ufficio fisso a Torino con 4 ragazze che lavorano tutto l'anno. È una vera impresa questa, sono diventata un po' imprenditrice. Devo dire che ho perso nome e cognome, perché il mio cognome sarebbe Consolata Beraudo di minuscolo Pralormo, ma sono diventata o la signora dei tulipani o la contessa giardiniera. Contessa giardiniera e signora dei tulipani, allora ci dica quali sono le novità di quest'anno, perché so che ogni anno ci sono delle sorprese, non possiamo vederle, ma vogliamo essere aggiornati. Sì, ecco, questa è un'altra cosa interessante. Con la responsabilità di un grande evento, ogni anno i nostri tulipani sono nuovi, tranne quelli del sottobosco in cui lasciamo i bulbi vecchi. Per chi ce l'ha a casa, questo lo dico perché interessa, può tranquillamente lasciarli dove li aveva piantati. Certamente non fioriscono tutti l'anno dopo, anni alternati, oppure un po' più piccoli, meno grandi, ma noi rinnoviamo sempre con progetti nuovi. La parte progettuale è quella che mi piace di più e cerco sempre di inserire novità. Devo dire che un must obbligatorio ogni anno è il tulipano nero, che si chiama Regina della Notte, che io abbino sempre in aiole con il rosa chiaro e il bianco, perché è mitico per film, per romanzi, quindi le persone a volte entrano e chiedono: dov'è il tulipano nero? Quindi la prima cosa è questa. Ecco, metto dei tulipani speciali, uno si chiama Shirley ed è un tulipano che nasce bianco, man mano sboccia, si stria, fa delle striature viola e poi diventa tutto viola, quindi è una mutazione nel corso di 10 giorni. Quindi sono queste un po' le sorprese che le accennavo di ogni giorno da scoprire. E il tulipano che cambia colore si chiama Shirley. Shirley. Il tulipano nero scuro invece si chiama Regina della Notte, Queen of the Night. Di fiori neri ne esistono pochissimi, forse nessuno. Pochissimi, sono un po' artefatti gli altri, perché anche questo lo dico a scapito degli olandesi in questo senso. Loro lo chiamano tulipano nero, ma alla fine è un viola intenso scuro, quasi un color melanzana per spiegarmi, ecco. Però non è proprio nero. Perché il fiore nero, se pensa, è una rarità, adesso questo tulipano nero è pieno di fiaba e storia e mito intorno, ma non è un bellissimo fiore nel giardino, un fiore, prima di tutto non lo vedi da lontano perché è talmente scuro che si mimetizza con il verde. Io, come dico, come sfondo gli do sempre degli sfondi chiari, bianchi, giallino, rosa. Fiori neri ne conosce un'orchidea che è nera, un ireos anche che è nero, cose che io sappia, c'è una rosa nera anche che hanno creato, però non sono tanti questi fiori scuri. Sono una vera rarità. Signora dei tulipani, un consiglio per noi cittadini isolati in casa per bulbi che possiamo mettere a dimora in vaso, su balconi, terrazzi, potendoli poi godere le fioriture quest'estate? Se si potrà fare, vorrei fare a fine settembre una mostra sulle daglie, che sono bellissime e che si piantano adesso, che vengono anche nei vasi, anche in terrazzo, però di nuovo le pianta ad aprile e le vedrà fiorire da agosto in avanti. Sono qui che appunto sto guardando dal giardino, abbiamo questi alberi, cedri del Libano, queste conifere stupende, enormi, che ormai hanno superato nella loro altezza il castello, che io definisco come i guardiani del castello. Sa, no, in questo momento cosa staranno pensando tutti? Che l'isolamento nel castello di Pralormo non è malissimo, mannaggia. Però in realtà, insomma, mi rendo conto che c'è c'è anche molta sofferenza nel non poter condividere un paradiso che è stato frutto davvero di grande lavoro, di grandi investimenti. Poi soprattutto il lavoro di squadra che io porto avanti da anni con i miei collaboratori è una delusione profonda, perché se lei pensa aspettiamo questo momento per un anno intero, lavoriamo su questo, poi tutti gli argomenti collaterali, quindi le persone coinvolte durante il tulipano quel mese lavorano 42 persone e abbiamo poi di là una zona cascina più di 40 espositori, quindi è un momento attesissimo perché anche commercialmente per questa sezione è molto valido, perché arrivano da tutto il mondo, da Europa soprattutto, Italia, passano la giornata, fanno gli acquisti, mangiano qui, insomma è tutto un insieme, quindi è una delusione profonda che quest'anno il mio team, la mia squadra non ha potuto raggiungere il traguardo, cioè il traguardo c'è ma me lo godo da sola. Capita a lei e capita a tutti gli organizzatori di manifestazioni del genere che sono stagionali, che non torneranno, per questo è anche importante condividere perlomeno attraverso i social, però non posso lasciarla andare senza sapere qual è il tulipano preferito di Consolata Pralormo. Dunque, il mio tulipano preferito si chiama Sweetheart, che vuol dire dolce cuore, è un tulipano giallo, di base giallo chiaro, con tutto un bordo frastagliato bianco, tant'è vero che gli olandesi scherzando lo chiamano bicchiere di birra perché sembra tutto dorato con questo bordo frastagliato bianco. Quando sono tutti insieme piantati, mossi un pochino dal vento, lei vede questa base gialla, ma tutto questo bianco che si muove nell'aria meravigliosa. I tulipani con la schiuma, possiamo dire, i tulipani bicchieri di birra. Senta, invece che tulipani possiamo scegliere che siano adatti ai vasi e alle cure, diciamo, non precisissime della gente di città? Dunque, consiglierei i tulipani, quelli più robusti, insomma, ci sono i classici tulipano rosso con i 5 petali, si chiama Oxford, e uno rosa stupendo che si chiama Pink Lady. Quindi il Pink Lady e l'Oxford sono quelli più robusti, secondo me, più facili da coltivare, che danno un risultato. Poi in quelli particolari, famosi perché, cioè tulipani pappagallo, hanno i petali tutti spettinati, quasi contorti, e quindi non sembrano quasi tulipani. Poi una rarità delle rarità, i viridiflora. Viridiflora è una famiglia di tulipani. Perché si chiamano viridiflora? Perché sono di base rosa, bianchi, arancio o gialli, ma hanno delle fiammature verdi. Sembra che il gambo o la foglia prosegua nel petalo, quindi quella è una vera rarità di gran soddisfazione per i collezionisti. Tutti i tulipani che possiamo coltivare o tentare di coltivare o ammirare attraverso i social, e devo dire che vale la pena vedere Consolata Pralormo anche per la sua divertente e inconfondibile borsa annaffiatoio. In ogni caso, l'appuntamento a questo punto è a settembre, augurandoci che davvero tutto vada per il meglio. Sì, cercherò di fare l'ultima settimana di settembre, le prime di ottobre, qualcosa. Qui è il momento di tartufo, barolo, funghi, qualsiasi cosa, quindi ci sarà anche una parte culinaria importante, ma il parco si potrà vedere in versione autunnale, che devo dire che è anche un grande fascino. Grazie, Consolata Pralormo. Bene, grazie a voi che mi avete ascoltata. Non ci sono due giardini uguali. Non ci sono due giorni uguali nello stesso giardino. Hugh Johnson. È tutto anche per oggi. Grazie a chi mi sta inviando le foto del suo giardino e del suo orto a ilgiardinosegreto@radio24.it. Ricordate di farmi sapere da dove scrivete. Vi aspetto domenica prossima, sempre a metà pomeriggio, con Il Giardino Segreto alle 15.30, se no in podcast. Restiamo prudenti e ottimisti. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.